avanti. Salve, controllo di radio, sto facendo il microfono del canale. Ciao, buonasera, Gianni da questa parte, chi sei? Ciao Gianni, Antonio. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Aspetta che mi pongo i biciti, che... già lo strumento è piccolo. Gianni da Perù. Gianni il profeta da Corso Vico. Ah, capito. Dai, comunque sono Antonio Cavasacca, Ok, fai un passaggio. Mi interessa più che altro la radio, 1, 2, 3, prova. Guarda, qua sei 9 più abbondante della radio 5. Ok, come ha amplificato almeno? Va bene, comprensibile, chiara, c'è tutto quello che serve. Ok, ti ringrazio. Figurati, di niente. Che zona ti trovi? Diciamo oltre San Camillo. Kk, come ti arrivo io invece? Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo un po', ok. Radio bomba 9-10. Perfetto, grazie. Dai. Più o meno è simile anche qua per te, dai. Bene, merda, bene, merda. Vediamo se c'è qualcun altro in ascolto sul 10. Attenzione al canale 10, cambio. Avanti. Buonasera a todos, il doppio rumo che vi super cordializza, cambio. Buonasera anche a lei. Solo si tratta. Solo e sconsolato. È Marco Conno. Non si è sentito. Sarà straffogato. Come al solito a quest'ora. Si straffoga. Allora, te le immagini questo Marco Conno? Aspetta Natali, che mi curi. Che stavo facendo sino adesso? Mi c'erano Marco e la figlia. E già che c'erano, dallo spio mi sono fatto comprare la carne. E me l'hanno portata a casa, che bravi. E infatti, cioè, me l'avevi detto che doveva spiegarmi. Sì, ti andrai, non c'è problema, non paghi. Me l'ha prestati Lidia, poi gli ho dato i soldi. Andava. Ha ingrassato anche Lidia. Sa quando ha partorito è ingrassato, era così magra, ma magra, guarda. E adesso già un po' è pienota, sta bene. Meglio così. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, cambia, sveglia Caffè Mauro. Niente, ci deve essere gente sul 23 forse. Non lo so. Qua non c'è nessuno, ci sono io e tu. E anch'io? Io, tu e le rose, e mia Gianfranco. Ciao Gianfranco, avanti. Sempre facendo la ricci di buco così. Sì, alla grande. Io. Sì, sono sempre in ascolto, anche quando non ci sono in ascolto. Anche io faccio così, però quando ascolto poi dopo entro e sempre, non sto solo alla sera, almeno che stia facendo qualcosa, allora ascolto e basta, ma solitamente entro perché non ci so stare senza entrare. Gava. Poi adesso ancora di più, perché mi fa compagnia, dai. Faccio quattro chiacchiere così mi distraggo. Stasera mi sono messo a cantare a karaoke e mi sono scaricato un bel po'. Ha fatto bene, perché stiamo andando verso un periodo di sfiga micidiale. Avanti Natalino, buonasera, ben ascoltato. Buonasera anche a lei, signor Gianfranco, ben ascoltato. Allora, io pure se ero qui in ascolto facendo le orecchie di porco, ma non c'era nessuno. Io invece sono andato dal medico, sono già tutti in tenuta di guerra. Porca la miseria. Perché la febbre c'è, Gianfranco? No, devo fare delle ricette, ma i pazienti sono in strada adesso. Perlomeno, da me non fanno più entrare, tre alla volta, con distanze di 2 metri uno all'altro, ti servono velocemente e fini di andare, perché la situazione è molto grave, sembrerebbe così, hanno detto, tanto è vero che da domani è tutto chiuso, tutta la scuola è di un ordine di grado, quindi che sfiga. Lo so, perché anche mio figlio me l'ha detto che la scuola è chiusa, è un casino. Speriamo di riuscire a debellarlo questo virus, perché se no ammazza un obbediente. Purtroppo sì, perché è una grave polmonite quella che ti prendi, parole povere. Non è come dicono questi idioti su Facebook, su tutti questi cose che stanno diffondendo notizie false. Non è una cosa da prendere sotto gamba. È capitato che addirittura poi c'è la gente che dice ma io operi che se te la prendi schiatti come niente. C'è gente che proprio non ha capito una mazza. E gente ignorante, prende la cosa sotto gamba e magari sono proprio quelli che non stanno attenti che non se lo prendono, capito? Quelli che stanno attenti magari si bidano il virus. Ti ho detto, se veniva la dottoressa stamattina, Natalia non ci è venuta, te ne immaginaci? Ho avuto paura che avessi coronavirus, e se ne gioco. Boh, vabbè, lasciamo perdere là. Solo che prende sempre questa gente debole, capito, che ha anticorpi in minoranza e anziani, ma gente malata, eccetera, eccetera, con patologie. E quindi bisogna stare un bel attenti, perché adesso sono molto debole, capito? Avanti. E buonasera a tutti, 7351, Nicola Lupo Grigio, come va in Giorgio? Ciao Lupo Grigio, oggi bello sparato, dove sei? Buonasera. Sul terrazzo del mio palazzo, dove vedo passi tutta Tartari con batteria carica. Cappa lì c'è una bomboletta e lì arrivi bene. Quella è la posizione, se vuoi l'antenna in chibi guai, se metti l'antenna sul terrazzo sei a dama. Avanti, sono in compagnia di Natalino e di Gianfranco, avanti per chi vuoi. Lupo Grigio. Sì, allora la situazione di questo coronavirus non è tanto allegra, perché da domani le scuole sono chiuse fino al 15 e non posso dire perché mia moglie è insegnante, quindi mi decido di staccare. Sì, lo so anche io, perché c'è mio figlio che va a scuola, quindi lo so. Stanno facendo entrare anche dal dottore a 3 a 3, sono tutti fuori i pazienti, non li vanno più entrare tutti insieme. Ma guarda, ma io non so se cominciare a preoccuparmi veramente, oppure sono delle cose che fanno, diciamo così, tanto per evitare, perché è meglio preoccuparsi e adottare i metodi per debellare questo virus, fare di tutto, non baciarsi, non abbracciarsi, stare, come fa uno a stare un metro di distanza uno dall'altro quando sono moglie e marito e vengo a cari in pari, e quindi già non ci baciamo più in bocca, sì, che ancora uno si abbraccia e si bacia. Io se avete parlato in due, buonasera a tutti. Ciao Condor, ciao Marco. Ho detto, se mi capita la crociera me la faccio lo stesso, non me ne frega nulla. Almeno muri con il coronavirus, così infatti. Ciao a tutti, scusate la interruzione. Ho detto che vogliono chiudere le scuole 10 giorni, ma non ha senso, perché se le chiudi 10 giorni cosa credono? Che all'11° giorno il virus sia scomparso, ma per carità. E poi ti ho detto, se ti deve beccare ti becca, non ci sono santi, anche se usi la maschera antigas completa, come te la levi, ti tocchi gli occhi o la bocca è fatta. È nell'aria, non c'è niente da, è nell'aria Marco, ho venuto da rifà. È come quando, per dire, c'è quel virus che prende la gastrite e i cani, vicino a casa erano tutti con la gastrite, compreso Tyson, si è preso anche lui la gastrite, eppure non mangia roba che fa male o non mangia roba da terra, niente, eppure si è preso la gastrite lo stesso, quindi è nell'aria. Adesso rilancio per Nicola, volevo dire, sì, così è. bene, a proposito di mangiare, me l'hai ricordato, dai, riprendete voi che vado a mangiare. Ah, se lo appena mettere non hai fame. Nicola, riprendi. Sì, sono io comunque ho sempre fame, eh. Io ho sempre fame. Comunque, chi siamo stasera nel queste ore? Io, Gianfranco, Natalino, e poi c'è Marco Condor. Avanti di nuovo, fai girare per Gianfranco. Sì, Gianfranco, interrogativo, come mi ricevi stasera, capo? Sì, ciao Nicola, ciao Marco. S9, Radio 5, abbastanza bene, solo che si è un po' sacrificato lì al freddo, perché adesso scende la Iassa, quindi deve avere un portatile, come si dice, a prova di umido. No, va bene, ma è sopportabile, una bella cucchietta, un bel giubbotto, ma che poi io ti dico la verità, io qualche anno fa ho speso circa 20.000 euro per mettere gli scaldamenti della Medea a casa, quella da casa con termosifoni, marmo rosso, tutti i pavimenti. Io per due mesi ho dovuto affittare da un'altra porta, eppure guarda, se ho accesso 3-4 volte anche il corpo, il caldo non lo sopporto, preferisco il freddo. Beh, anche a me il caldo dà un po' fastidio, però stare fuori, perlomeno qua dove sono io, non è molto consigliabile, perché poi ne entri tricia. Purtroppo è così. Riprendi Natalì. Infatti, qua c'è già freddo, boh, e c'è, vedi, 15 gradi ci sono qui dentro. Ma per stare lì non me l'avrei messo in macchina l'antenna, e sarei stato dato la macchina al calduccio. Va bene, non c'è problema, io ci sono abituato al freddo, sono stati per le montagne in Bono lì, con il fondello siamo rimasti anche bloccati, quindi ci sono abituato. Ma il servizio? Sì, con il servizio, sì. Ci hanno detto di andare a Lule. Siamo andati a Lule, nevicava, non avevamo le catene perché nessuno voleva immaginare, e non si mette la ride, con la tanda il collega mi ha detto si deve vedere tutto, infatti è un'idea, no? Mi sono perduto sopra che piano siamo riusciti a scendere. Meno male non ha preso velocità. Beh, io allora pensavo quasi che lo passato bene il comune da mano. No, meno male che non è passato nessuno, non ci ha visto nessuno. Eh no, entravate nelle barzellette, nella barzelletta nuova dei carabinieri. Avanti, Natalì. Come si immagina fare il lentino di montagna, un freddo di picciso, mio padre lavorava all'hotel Monferrato, lì a Bono. Ah, Roger, capito. Ma guarda, anche lì era quell'anno in cui la neve proprio... Ma poi c'era anche una ragazzina che si è messa a piangere perché era rimasta bloccata e non andava né avanti né indietro. L'abbiamo dovuta portare piano piano perché non si faceva di fronte. Poi se ne è potuta andare tranquilla. Già ci sono andato parecchie volte in quelle zone, quindi le conosco. Sono belle zone. Tu immagina che io ho visto per la prima volta che era un terreno torrente a tutto, l'ho visto pieno d'acqua che sembrava il fuoco, veramente mai avevo visto una cosa del genere. Ma una volta lì è rimasto lo stesso bloccato e sono dovuto andare io a soccorrerlo da Sassari. Lo so. Una volta sono venuto a prenderci con il contrattore, e meno male che sono venuto a prenderci, se non rimanevamo lì, non troveravamo lì a nulla, cazzo. Duriamo. Vabbè, comunque mi sembra che quel tempo non lo fa più, Non credo che abbia nevicato in questi ultimi anni, o sbaglio, cazzo. Non lo so, io quando andavo sono passati parecchi anni in quelle zone, quindi non lo so che si può fare. Ma la sorte in quelle zone nevica sempre la tariffa. Può darsi, sì, sì. Già lo so io cosa vuol dire la neve lì, con guitar record, mamma mia. Sono zone praticamente in altura e quindi nevica d'inverno. Jean-Frank, a tua. Le galline non le conoscevo, ma le tempole non le ho mai viste. Nicola, dimmi una cosa, ma tu eri in servizio qua a Sassari? Allora, io mi occupavo di trasmissione, quindi riparatore e installatore, quindi la sede è a Sassari, però giravamo tutte le 90 caselle della provincia di Sassari a fare manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione. Sì, sempre per i soliti apparati, no? Voi all'epoca, penso che sarei qualche anno in pensione, avevate il gamma 408, giusto? E quindi, come dicevo prima, qualche giorno fa, io avrei potuto sicuramente fare domanda per avere la licenza di radiomatore, perché comunque ho fatto un corso di 2 anni, oltre al diploma inserito tecnico, ho fatto un corso di 2 anni, un anno presso Ivrea, era la scuola di formazione dell'Olivetti, l'altro anno presso il nostro comando per studiare in ginocchio a Parano, il primo anno era l'elettronica generale. Ho capito, Nico, sì. Adesso non so però, perché sapevo che era cambiato qualcosa per la concessione, diciamo così, della patente ai diplomati. C'erano alcune restrizioni, forse dovrei chiederla subito, non so che cosa. Comunque dovresti chiamare Cagliari, già sono gentili, informarti, ti dicono tutto, tanto c'è una signora molto in gamba, tutto lì, riprendi già. E appunto, quindi ti metti delle antennone lì, sul terrazzo, li favorisci tutti i condomini. No, guarda, non prendiamo questo argomento, perché per cambiare la lampadina di quelli che ci siamo stati, vabbè, lasciamo perdere questo. No, comunque non è tanto il diploma, ma tanto che nel mio foglio matricolare c'è scritto tecnico radio, eccetera, eccetera. Però a me hanno detto che lo dovevo fare entro un anno dal pensionamento. Comunque, io lo faccio una telefonata a quella signora, che già la conosco telefonicamente. Va bene, non sa mai che magari ti riesci a averla. Non che ci sia tanta gente, mai. Quindi però, cioè, almeno qualche soddisfazione te la togli, dai. Tanto non è che devi mettere, come stai dicendo Gianni, antennone, ti metti 2 verticali su un unico palo e vai tranquillo, sì, non dai fastidio a nessuno. Tutto lì. Riprendi, ti Natalino, a te tocca. Oh Gianfra, abbassa appena quel microfono, che sennò ogni volta mi tocca abbassare da te e alzare dagli altri. Abbassalo appena, che è troppo forte. Dimmelo tu, perché siccome avrò toccato per... Adesso va bene. Adesso è di russo. Perché non c'ha una mano, cioè la manopola se ne scappa la risa. C'ha una manopola piccola, ma più fine a una matita, e non si vede un tubo. Quindi, fatto bene a dirmelo. Tra l'altro, lo devo notare io col piccolo. E così. Sì, Nico, se ci riesci, fallo. Ma io, sai, così ho tornato nella 26, io non so neanche i radiomatori se parlano delle stesse cose che parliamo noi, o hanno un linguaggio un po' più vecchio, adesso non lo so. Nico, siamo tutti vecchi, radiomatori oramai giovani, forse ne faranno uno all'anno, forse. Ormai sono tutti con i telefonini, siamo tutti vecchi e anche messi male, quindi ti compri da parte, in HF riesci a fare qualcosa forse, ma in VHF, VHF c'è pochissima gente oramai, siamo tutti sulla via del tramonto, anzi oramai è già tramonto. Sì, vero già, non so se chi ascolta te lo potrà dire. Sì, è così. Ah, se prima io ascoltavo molto di più, c'era più da ascoltare, adesso sono tutti in digitale e anche i ricevitori non interessa più nulla, per fare ascolto. L'unica è diventare radioamatore, entrare nelle frequenze dove ci sono anche i questioni locali, diciamo dove ci sta la gente di Sassa, hai capito? Cioè l'Ecco ha sparato, guarda, non si capisce una mano. Oh, non ho capito già fatto. L'Ecco, ma è mai entrato di colpo? Io non ho toccato nulla, forse ho toccato come ho toccato il volume. Guarda adesso. Ottima, faccia tutto così. E così. Però nata lì. Se tutto, come diciamo lì? Se tutto sbagliato, se tutto da rifare. Se tutto da rifare sì. Sai perché Gianfra? Perché sotto il volume, c'è cioè il volume dell'Ecco, capito? Ma non è che si è rimballato, adesso c'è di nuovo l'Ecco. Boh. Guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, adesso è tornato normale, va bene. Tutto lì. Sì, Nicola, e niente. Ma anche un ricevitore, ci sono dei bei ricevitori, comunque ti potresti a prescindere, potresti ascoltare qualcosa, dai, in HF. Ti metti un dipolino, una cosa, un po' più da appendere. Tanto la gente non sa neanche cos'è. Sì, vabbè, questo ascoltatore di onde corte si può fare. Piuttosto che ti darevo un'informazione che io non ce la conosco. Ma le radio digitali, a su quale banda lavorano? Le solite VHF e UHF. Digitali ce ne sono di tre tipi. Quindi sono tre titoli digitali non compatibili l'uno con l'altro. Quello che ora forse è più in uso è il DMR, Digital Mobile Radio, che è anche usato dai tuoi colleghi insieme al Tetra, perché anche loro hanno acquisito quegli apparati, che sono nati in effetti per uso professionale. E niente, però qua a Sassa, da quello che mi risulta, c'è poca gente che li usa, ecco, quindi non, anzi, c'è una rete nazionale che è quella, come si chiama, DMR Italia, adesso credo che si chiama, o Brainmaster, che è collegato a tutta Italia anche, ma il ripetitore è quasi vicino sull'imbara, quindi si può immaginare. Ah, ho capito. Ma comunque, diciamo, il metodo digitale deve essere una provocazione migliore dell'analogico, altrimenti dovrebbe essere più difficile. Cucù. Registrato. Il cucù. Sì, è molto più... non c'è paragone, diciamo, non puoi neanche fare un paragone, segnale zero, quello funziona ancora, quindi è tutta un'altra storia, voce chiara, radio perfetta, tanti servizi, sms, c'è un cucù, avanti, così ci dice anche che adesso. Buonasera, ma giusto così per salutarvi, perché sono entrato a poco e sono stanchissimo. Ciao Gianfranco, Nicola, ho sentito anche Gianni mi pare, lui Natalino e lui non so chi ci sia altro. Ok, comunque buonasera a tutti, io sto per un saluto. Nico, non hai perso niente. Io più guardo questa stanza e più mi pento di aver buttato via tanti di quei quattrini, ma tanti, veramente tanti. Cosa non si sa, per una passione che mi sa che sta andando a finire. Va bene, ok. le 8 meno 25 passate e quindi sono le 19.35. Il cambio per Gianni, 5 minuti e poi vi lascio al vostro questore, giusto per salutarvi e per dirvi che ci sono. Vai Gianni. Ehi, ciao Claudio. Sentito, dai, buonasera, dai, resta con lui, se vuoi restare, non c'è problema. Andave, a chi tocca, avanti, Marco Condor, sei rientrato, Ciao che è entrato, ho la bocca impegnata, non fate battutacce, riprendi. Non voglio sapere cosa c'ha in bocca. Avanti, Natalia. Infatti è pervertito questo racconto e quindi non vogliamo sapere cosa c'ha in bocca. Ciao Cla. Senti Gianfra. Sì, ciao Claudio, ho ascoltato. E ogni tanto ti fai vivo anche tu stai pensando come gli altri. Molto Libia. Vabbè, niente. Vediamo il cambiano Nicola, dai. Nicola, a te. Sì, sì, comunque, confronto al resto del continente, qui una piccola ruota c'è. Perché se è vero quello che c'è scritto su internet, ci sono città dove proprio c'è il silenzio più totale. Poi se non ho capito male, non so chi è stato a dirmelo, c'è anche una ruota su 23 canali, ma lo confermate? Sì, ogni tanto c'è. Ma sono persone che non hanno mai modulato qui in interrogativo. I canali sono liberi, io posso andare su 23, loro possono venire qua, quando vogliono non ci sono problemi. Sì, vengono ogni tanto andiamo noi, ma sono diciamo delle combricole che si formano su un certo tipo di canale, si frequentano certe persone, su un altro tipo. Diciamo che siamo divisi così, capito? Sono amici loro e noi siamo amici di questo canale. Beh, comunque la cosa bella è che comunque ci sono due ruote a tanto. E già è tanto, confronto. E una è mezza buccata, però. Dove proprio. Giusto? Brecco. Avanti. Cappa, ciao Gianni, non so se mi ascolti. Forte chiasso. Va bene. Non so che ci sia in ruota. Ho sentito a te, a Nicola e mi sa di aver capito Claudio, poi non so che c'è altro. Ho acceso adesso. C'è Natalino, Marco Condor col boccone in bocca e io, dai. Ah, ciao Massimiliano, mi hai sentito, dai. Avanti, vediamo un pochettino, lupo grigio, se ascolti a Massimiliano. Ti conferma, molto chiaro, qui la terrazza proprio tutti. Noi non ricordo Massimiliano da quale quartiere modula. Io modulo da lì punti, un pochino più giù, dai. Benissimo, guarda, mi copio forse chiaro, io qua nel portachetino non ho lo strumento, ma da 1 a 10 ci dicevo poco. Va bene, tu a me mi stai arrivando con un radio di 3 e un Santiago di quasi 7. Beh, allora, io ho il periodo di protezione perché io con la mia fitta batteria l'ho collegato a una batteria di 12 volte 9 amperori che ho comprato da Pisano, però con il periodo ho praticamente abbassato la tensione, adesso io l'ho tolto da una tensione di 13 volte la batteria e probabilmente per questo che è così forte. Ah ok, dai, va bene, dai. Comunque quando ti metterai un po' più all'avanguardia magari sarà meglio. Ok, vai Claudio, ciao, buonasera, ben ascoltato anche a te. Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato anche a te, dai, sono Interradio. Ciao anche a Luca, buonasera, ben sentito. Ma non mi trattengo molto, ho perso la puntura, bisogna di sdraiarmi a dirlo. Mi sembra che le ho finite, mi sono andato adesso, ne ho prognato. Mi pare che le ho finite, il primo ciclo, vediamo se ritorna. Va bene. Sì, Nico, stai arrivando benissimo, qua sei su 4.30, sei praticamente tra il 7 e il 9, quindi 8. ho messo l'occhiale, dovresti essere 8. Va bene, il cambio per Luca allora, vai. Avanti Luca, buonasera, ben ascoltato. Ciao, ciao Massimiliano, a Nicola non lo sento. Siete con delle antenne un po' di fortuna, tutte e due, quindi è un po' difficile sentirvi, eh? Va bene, ok. Avanti, quindi Marco sta mangiando, Gianfra riprendi tu allora, vai. Sì, ciao. Ciao ai due che sono entrati, buona serata. Ciao Claudio. Rilancio a Gianni perché anche io mi sto allontanando per mangiare qualcosa, perché sono già le 8, se non sbaglio, forse anche passati. Riprendi già, ci sentiamo dopo se ci siete. Ehi, buona carica allora Gianfra, ci sentiamo dopo, se ci siamo, ma non lo so perché vado a vedere il televisore. Forse... Andare, mangerò qualcosa anch'io se mi tocca. Dai, Giannini. Dai, Lucrizia, buonasera. Avanti Massimiliano, mi senti? Sì, ciao Lu, buonasera, dai, saluto Gianfranco e Massimiliano comunque Gianfranco. Saluto anche Natalino. Cosa andete a orario andete a mangiare? Cioè nel senso che alle 8 c'è il coprifuoco così. No, Franco e Natalino, avanti Natalino. È che mi guardo questo telegiornale, benedetto. Quando mangio, capito? Del rilascio così mi guardo il telegiornale, col coronavirus. Comunque a proposito di coronavirus, le scuole di tutta Italia le hanno chiuse. La mia figlia già da domani non va più a scuola per 10 giorni. Lo so, anche mio figlio la stessa cosa, Massimiliano. E addirittura dal medico tutti i pazienti fuori fanno entrare a 3 a 3. Ma comunque. Vai Natalia. Ciao Massimiliano, ben sentito, buonasera. Riprendi tu e fai girare per chi vuoi, che io sto aspettando la 50 qua per fare un po' di carica. Ciao Natalia, ben sentito anche a te da... Io adesso ero da un bel po' senza accendere. Il tempo è ben poco. E vabbè, là. Ah, pure due a mangiare, devi. Stanno buttando il canale, lo copri fuoco, all'otto tutti a letto. Che davvero, qui? I nocchi all'otto tutti a nanna. E va bene, là. Va bene così. Vai, Luca. Luca non riprende. Vai, zio Cla. Ma sono spariti tutti qui, Cosa? Ha detto che sono spariti tutti, ha ragione, tutti si sono eclissati. Sto dicendo, quando iniziano ad essere già le 7:30 già, tutti, chi deve mangiare, chi deve fare, io si mangio all'ultimo, a ridete al dottor Ravabbi. Ma io mi sono abituato all'ospedale a mangiare il zinco. Lui. Vai Nicola, dai, vai per te, riprenditi, vai a girare tu, vai. Ma chi che deve riprendere? Scusate, io non lo sentivo, però lo sentivo quindi non so riuscire a capire quello che ha detto. Nicola le sta lattiti adesso. Va bene, ok Nicola, vai tu a mangiare anche tu. Chi è rimasto qua che non deve mangiare ancora? Ciao Nicola, ci sentiamo, buona serata, buona carica. Sì, mi pare che siamo tutti a stomaco vuoto, ma sì, io posso aspettare anche se dalle 9, problemi non lascio. Vai Claudio, tu anche tu mangiare devi? No, io mangio alle 8:30, alle 9, anch'io, però vado a sedermi a dirlo, ragazzi, dai, sto male qua nella poltroncina, ho fatto la puntura da poco, sto male, mi sta prendendo dei crampi alla pancia. Quindi ci sentiamo, buona serata a tutti, grazie delle due chiacchiere, io sono entrato a salutarvi, niente, beh. Buon proseguo, ciao anche a te Natali, sono fatto poco fa ma non ci vedi evidentemente. Ciao Massimiliano, Gianfranco, Gianni, Marco, Nicola e chiunque fosse l'ascolto su 10. Buon fine serata a tutti e ci accoppiamo, ok? Domani ti mando un messaggio Massimiliano, vediamo se quella roba che ti ho detto oggi è... lo fa anche domani, dai. Ok? Dai, ciao. Buona serata a tutti, avanti a chi tocca. Ma buon pomeriggio, ci sei. Ciao a Claudio e Massimiliano, sto cuocendo la carne e sono in cucina, ciao. Mega somaniatore, ciao. Avanti Natale. Ciao Marco, ciao, ciao a tutti. Siamo qua, la 50 si è eclissata, boh, non so neanche dove sia. C'è il principio che è mannata, è Ambrosino, pare, andando nelle torrenti. Si sta tradendomi. Qualche biondo ha trovato. Sicuramente quella lì mi sta tradendo. Avete visto la foto di quello del quadro, mi? Natalì, così ti fa concetta a te, mi. Come quello del quadro. Ci da pompa dall'armadio lo cazzo, non si sa mai con chi si bevini. Ehi Gianni, hai visto? Stile Dario Argento. Belli quei quadri però, Ma sono impressionanti, mi ha fatto impressione, lo so. Uno è di Caravaggio, l'altro è di quella donna, boh, non mi viene il nome. C'è comunque il nome, credo. Oia. Vabbè. Devono essere con una mente contorta queste persone che fanno questi quadri, però. Non è, diciamo, molto da fidarsi. No, ma sai cos'è? Quello prende spunto da opere dalla Bibbia, provenimenti dalla Bibbia, oppure opere teatrali, capito? Non è di che gli è venuto in mente così, senza motivo. Tutta roba, credo, biblica comunque. E loro la rappresentano disegnata, diciamo, dai. Vai, riprendete che mi si brucia la carne. Volevo sapere con cosa la sparavo, o col fucile a pompa o con la Glock. Poi mi dici se è efficiente quando spari. Già. Dimmi Natali. Ha preferito non far bruciare la carne che rispondere a me, questo macocco. E allora, perché pensa alla magnuzza lui, deve pranzare ancora. Allora per di sera, dimmi tu. E la cena che ora la fa, mezzanotte. Dammi lui, sicuramente la farà a mezzanotte. Poi io non digerirei, cazzo, facendola così tardi ci sono problemi di digestione. Sei abituato così. Sei abituato così. È una scena che c'è Marco, entra all'improvviso, no? E ti dice queste cose, ma dimmi tu. I dolori atroci, Natali, scusatemi, ma non ce la faccio più, mi devo alzare perché non ce la faccio. Dolori fortissimi, allucinanti, cazzo, guarda, ho preso anche il coso, antidolorifico, Ecco, ricatto, vedi, no? Ma mi sono venuti così di colpo, forse è finito l'effetto dell'antidolorifico. Evidentemente, è finito il dolori così. Ma erano giorni che non ne avevo, adesso di nuovo si stanno ripetendo, deve essere che ho lavorato troppo. Per forza, ti sei sempre andando nel torrente, tu puro come te Ambrosino. Lì cazzo facendo, invece di stare a riposo, cazzo, non si riposa un milino, non si riposi. Massimiliano? Sì. Sarà messa l'altra che Massimiliano, dai. Natale, io chiudo, dai. Ti saluto e ci sentiamo domani. Ciao. No, ho resistito, tutti assenteissimi. Adesso la telefono a mia moglie e glielo dico, e beh, un dia che sei, mazzi. Ecco la roba là. La roba là non ce l'ha. L'ha lasciata qua. Vabbè, là, già la telefono adesso, perché sarà giù sicuramente. È sparita e non l'ho più vista, boh. Sì, sono alta macchina. Allora, che lì non è. Vabbè, là, ci sentiamo domani. Miao. Miao. Bene, salutone a tutti, anche gli ascoltatori. Ciao Gianni, ciao, ci sentiamo. Io non riprendo perché tanto devo finire a mangiare. Dai, ciao a tutti, saluto a tutti. Non so che ci sia rimasto. Ciao, buon appetito. Ciao, buon appetito. Fatto un interrogativo, ma con conto. Dimmi. Volevo sapere se la potevo sparare con la tira pompa o con la Glock. Beh, come preferisci, diciamo che se metti palla unica e fucile a pompa la tagli in due, proprio la tagli in due, con la Glock è più impegnativo, ecco. Ah, il fucile a pompa fa troppo rumore, siccome mi dà fastidio il rumore. Ma Correggiare. Sì, perché la Glock non ne fa rumore. Con il silenziatore. C'è la canna troppo corta, non si può avvisare nulla. Male, male, male. Eia. Vabbè, dai, vi devo lasciare. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao Marco, ciao a tutti, anche gli infortuni, da quelli per me. Stavo scherzando. Abbiamo capito. Ciao. Se succede qualcosa, qualsiasi cosa, indagano a te e mi per primo. E l'ha detto anche al baracchino che la volevo ammazzare. Va bene, ciao ciao. Ciao, Natalino assassino. Tanto presentito. Fa anche rima, Natalino l'assassino. E anche un po' più vicino. Andare. Non ti ha fatto nulla, Magna, no? Vabbè, cosa fai a Magna? Se non c'è, non è presente. Adesso dico, non sei presente, come ti dici a nonno, non a mia nonna. L'appello facendo. Quando la chiamava a chi dai saggi sempre da rito, li tagliava la pettina, chi tuia. Chi so, muira macea. Se non la vedevano, dica. E che dica, non si presente. Se può chiedere autorizzario. Mamma mia, e chi domini, raccomando. Si rotino la calabrea, chi sono? Amaro. Ehi Maro, ci vuoi dare pizza? Tanto di me ne approfitta nei geppi, ci vuoi fare pizza. Quello già è vero. Poi adesso mi alzo, intanto siamo soli e Marco stasera, Manuela è la mia suocera. Oia, sta aiutando la mamma che c'ha un notturno stanotte, quindi non può andare. Quindi la sostituisce Manuela. Ci sentiamo pizza, domani là. E me la chiedo, che provo a telefonare a vedere se mi sembra ora. Tocca il tempo, ciao. Aiuta a toccare il tempo, a fallazza. Allora, come sta stato il tocco? Ciao, ciao. Attenzione Gianni. Chi è che chiama Gianni? Ma tu Gianni ti chiami? Sai che te frega? Fra, Mattarino si chiama il nome ogni tanto, hai capito? Buonasera, ciao Franco, ciao Mattarino. Avanti Fra, ma hai terminato di mangiare? Ancora roba in bocca c'hai? Eia, no, io devo mangiare piano, purtroppo un po' i denti, un po' tutto, mangio molto piano. Ciao, ben sentito, ma non mi viene il nominativo. E Natalino adesso si sta cambiando nome perché vuole ammazzare la moglie, vuole nascondersi. La centralina si sta partendo, vero Natalino? Roba in bocca c'è Marco Condo, la tavolina. Allora non si sa cosa sia di preciso, boh, io non voglio sapere. Guarda, sinceramente neanche io, sono un po' cantero in ascolto qua, però stavo facendo altre cose alla frequenza e boh, e sentivo che c'era roba in bocca, però non mi permetto di dire quello che c'avevo, guarda. O se va a Mezzamburga o qualche altra cosa, vabbè, là, sono cose sue, avanti fra, Marco. Che è andato via Nicola, se voi avrei detto i cannoli siciliani avevo in bocca. Ma che... i cannoli siciliani, oddio. E allora, terminato di mangiare, sì? No, ancora no. Poi me la prendo comoda, tanto la serata è lunga, a quando alle 6 di mattina a pigliar sonno. Perché mai io gli ho preso? Allora i bisogni. Io quando mia moglie mi chiama per mezzo e mezzo oppure mi riposo, dico ma io non ci vengo a mangiare. Io ho subito da mangiare dalle 9 mesi, dalle 9 in poi. A quell'ora si mangia la rossolare, non allora le cose. Lei dice ma bisogna mangiare perché poi non ce la faccio. Io dico beh, è così. Boh. Allora bisogna, non mi piace, manca mangiare. A me invece dalle 9 in poi pranzare, capito fra? Cenare volevi dire? No, per me questo è il pranzo. La cena è a mezzanotte. O a luna anche, perché no? Va bene, Natali, dai, riprendete voi, io qua chiudo, se no non concludo. Allora, ciao a tutti, ciao, ci sentiamo. Cenare, dicevo, là, fra, cenare, dai, mi sono sbagliato, poi e vabbè, io se non ceno a quell'ora, io presto non riesco a mangiare io. Io posso cenare dalle 9 in poi, prima, non lo so, poi io se mangio prima poi mi viene fame anche la notte. Tu sai che mi lascio alle 3, poi alle 3 per non lavorare, dopo è un casotto, non riesco a alzarmi. Però Natali, tu che la c'era, alle 9 in poi, 9 e mezza, no? Natalino! Stavo parlando con la 50, che finalmente è ritornata, non l'ho dovuta parare. Era a ballare, è andata, no? No, era... stavo facendo commissioni, capito? E è tornata adesso. E la stavi sgridando, non mai non l'hai sparata. Occhio che non ti spari i nemi. Occhio che, lo sai, oggi invece la televisione, le donne stanno a fare al contrario. Le parte della centralina e poveri noi. Non si fa primare a bancare, a lui, a noi, a Parì. Un attimo di quei ricchi, se... E fa. Quello che fa, la banca si sta bene, c'è tutto, c'è la palestra, c'è, manca solo la piscina, però se ci sia anche la piscina, figurati, ormai va in tutto, va in visione, c'hanno le celle blindate, c'hanno tutto a bancare, non manca nulla. Vanno le celle blindate per non entrare in aria. Oh, Giulia, si sta bene. Magari stanno bene quando sono giovani, ma non lo so, cosa c'è dai? Oh, Giulia, preparati! Lo sai, a bancare. Ci sono io, sono i colleghi che hanno lavorato a bancare. Tu lo sai che non le fanno entrare dentro, quando è in servizio, non le fanno entrare, Noi, quando siamo in servizio, fai servizio all'interno, io posso entrare, consegno il cellulare, ormai posso entrare, con colleghi che hanno fatto dei lavori all'interno non le fanno entrare, non le fanno. Purtroppo ci sono delle regole, lì non è come entrare in un ufficio postale, oppure lì prima di entrare se possibile ti studiano. Sì, è giusto, no, io non fa niente da dire, perché è giusto così. No, per entrare noi entriamo, siamo fuori, consegniamo, tanto che dobbiamo consegnare il cellulare, lasciare i documenti all'interno, alla portineria, poi entriamo, chiudo il cancello, chiamato cancello, ci abbiamo la scorta all'interno, e ci scorta, ogni servizio facciamo c'è la scorta, capito? E così via. Io mi ricordo quando salivo su invece a Sassari, consegnavo il materiale a Sassari, e adesso io non so se tu magari sei mai entrato a altre cose, entravo, chiudevo il cancello, poi c'era un altro cancello. Prima di entrare e di aprire il cancello, passava con lì con lo specchio e metteva lo specchio sotto la macchina, figurati, io dico, una macchina, quella con la pesa che si nasconde qualcuno sotto. E quando uscivo è la stessa cosa, figurati. Certo. Sicuramente è giusto farlo a fare quello, perché tutta la macchina non si bucca una basola, è un che si bucca già. No, io non sono mai entrato né per vedere e nemmeno per immaginare i due suoi, mai, sono stato sempre da bravo. Tu sei bravo, io ho fatto a Monello a Piccolino, no, sto scherzando, io entravo solo per lavoro, tutto qua, entravo solo per lavoro, quando entravo in macchina a Sassari, entravo per la consegna delle fatture oppure del materiale, insomma, lavoravo, acquistavo il materiale io, e consegnavo delle volte, non c'era materiale, lui lo consegnavo io, e solo per quello, e già bancari, lavoro faccio io, facciamo un servizio particolare, poi ogni giorno scendiamo, non io, i colleghi, ogni giorno, io sto scendendo un paio di volte e basta, io non basta, io faccio al centro a Sassari, proprio i colleghi, ogni giorno almeno un camion non entra per scaricare il materiale, tutto qua. Bene, Mela, tutto a posto, fra, sì? Sì, mi sono rientrato adesso, ero lì, a Sassari, vero, a farmi un giro, sono a 50 e mi sono rientrato pochi minuti. No, io dove si scuola, siccome dove avrei l'antenna, ho inzuppato l'acqua, ho preso qualcosa. Guarda il segnale, fammi una cortesia, fra. Sì, guarda, ma Campedino a 9:10. E allora è l'umidità, siccome è l'umidità. O sei staccato il naso, domani al controllo. Controllo, il naso, una spiega, ha preso l'acqua, che torre, la prossima che scendeva da 9, scendeva a 6 o a 7. Sicuramente c'è acqua, e l'umidità sicuramente, o il piede si è staccato il naso che avevo messo. Bene, Raffa, io ti saluto e mi sta chiamando delle porte, forse la cena è quasi pronta. Ciao Fra, saluto una domani, se coincide saluto in casa, va? Ciao. Ciao, buona cena, buon tutto, ce l'ascoltiamo. Ciao anche a Marco se è all'ascolto, ciao. E a Natalia. Ok, ciao Natalia, buona cena, ti raccomando, sarà bravo. Ciao Marco, buona cena, che è per te. Ci sentiamo domani se coincide. Ciao a tutti, tutti gli ascoltoni, cura per te, per me. Ciao a tutti. Ciao Marino, ciao Franco, ben sentito. Dai, alle prossime. Ciao Marino, ciao Franco. Sì, alla ciao. Oh, QRT, anch'io ne approfitto, ciao Marco. E faccio QRT. Salutoni a tutti quelli che ascoltano, alle prossime. Ciao. Ciao Natali, ciao tu in casa, ciao. Pomponio. Ehi, ciao, buonasera. Ciao caro, allora sono andato da Muraia per una commissione mia e per avere la conferma tua e confermo che quello non è DMR, quel digitale che c'è scritto è il DSP, Digital Signal Processor, che serve a migliorare la ricezione, a far avere una ricezione più pulita con i segnali bassi, credo. Quindi niente DMR, ho controllato bene. Vabbè, allora sai cosa faccio? Io ho bisogno del capo di stato, c'è con la missione per dirsi, lo dividiamo con il capitito del FM, va a fanculo. Dico per quello, a me non mi diverto. Quello da 25 watt, mi sembra costava intorno ai 50 euro, una cosa del genere. Eia, naturalmente potrebbe essere a rischio dogana se lo compri dalla Cina. Se si trovasse un venditore cinese in Europa che lo vende, e poi gli do un'occhiata e vedo se hanno anche le Grand Plain. Di solito sono a centrobanda a 98 MHz. Come ne parliamo da un'altra parte, dai. No, c'è tutto, c'è il trasmettitore, l'antenna, ti danno e anche il cavo. Se vuoi. C'è il kit completo in pratica. Capito? Bisognerebbe controllare, vabbè, sul telefono colui ce l'ha, Simona ce l'ha. L'ha usato per guardare un programma, cazzo, e mi sono arrivate 48 euro di pagamenti dei dati, hai capito? Quindi in pratica adesso io se carico quel telefono fanno 15 euro a ricarica, me ne mettono solamente un euro, fino arriva alla quota di 48. Guarda, a me, io, tu sai che io a parte lo smartphone o il telefonino a tasti, no, quelli di una volta, Nokia, e la scheda era solo per telefonare, giustamente, quello non ha internet, non ha niente. Beh, senza che io l'abbia chiesto, Vodafone mi ha automaticamente attivato questa offerta di 3 giga per navigare e ogni volta che carico per il traffico telefonico che lì lo pago al minuto, mi frega i soldi e li mette, li toglie per pagare questi 3 giga di navigazione. Guarda, sono andato sul sito Vodafone, ho tolto tutto quello che potevo togliere, ho annullato quel servizio, ho tolto segreteria telefonica, tutto, ho tolto tutto da menu, tutto l'extra che mi avevano messo, nonostante io l'abbia tolto, alla prima ricarica che ho fatto l'altro giorno, di nuovo mi ha fregato i soldi del credito e quindi sono rimasti pochi centesimi e ha riattivato questi 3 giga per navigare. se chiami il call center c'è sempre la voce robotica, cioè parlare con un operatore è quasi impossibile ormai. Se vai al centro Vodafone se ne fregano, non hanno voglia, dicono chiami numero verde, quello dove non riesci a parlare con l'operatore. Sono dei farabutti questi delle compagnie telefoniche, chi più chi meno. Se capì? Sì, sì, io più che altro ho lasciato il telefonino a Simona e un amico mi ha caricato, si è buttato a Polo, capito? E si guardava canale 5, Italia 1, Rete 4. Cazzo, tutta la stanza, ho guardato, e ieri vado a caricare, qui dicevo fra Zanni. Controllo che c'era un messaggio, che in pratica sono svegliati, ho speso 48 euro, capito? E hanno scritto di non superare i 60, 48 euro mi hanno bloccato tutto, quindi per ripristinare di nuovo i dati, devo telefonare a questo numero qui, e in pratica mi ripristinano di nuovo le... internet, hai capito? Non mi funziona nulla, non funziona né Facebook, nulla mi funziona proprio. Adesso se la prendo in culo, aspetta a marzo io faccio questa ricarica e vediamo un pochettino e cambio operatore, così se la tocca in culo. Che operatore hai detto? Poste Mobile. Ma non ti conviene farti roba tipo O Mobile, Iliad, che è una mobile, no? E mandare al diavolo le poste. Vabbè, ma più che altro l'ho fatto per... siccome lì il televisore non l'ho ricoverata, capito? No? In quella specie di camerata non pigliava un accidente. Allora mi sono fatto scaricare questo programma qua. Ah, pensavo che mi mangiava tutti questi soldi qui, hai capito? Me l'ha contattata per annoiarsi. Adesso stasera mi ha detto, Simona dice che da oggi in poi a Sassari quando si va all'ospedale si entra a turno, uno fa la mattina e il vicino fa la sera, hai capito? Per la questione del coronavirus. Guarda, per tutte le misure che vorranno adottare non, il contagio sarà lo stesso, non ci sono santi, possono fare quello che vuoi, ma non... hai visto che lì si ammalavano medici, infermieri, quelli tutti bardati, mascherine, occhiali, tutte, guanti nastrati, col nastro che ti chiude praticamente tra il guanto e la tuta, niente, sono ammalati lo stesso. E va bene. Poi questi sciacalli giornalisti lo stanno ingrandendo anche di 100 volte. Sì, ma tutto è partito per questo froscio che è andato di Cagliari. Ha preso la tavola, cazzo, e si è pigliato il coronavirus. Ha avuto la visita a Sardegna, hai capito? Positivo. Ma con cazzo stiamo passando tutti adesso. Vabbè, potrebbe essere chiunque, ma anche un uomo d'affari, non è... perché è froscio. Già fatta da un tore. Allora, stavo guardando i prezzi, ne ho trovato una a caso da AliExpress, 52 euro, 15 watt, ingresso microfono, ingresso audio, proprio come l'hai descritto tu, tasti per la frequenza, volume, mic, volume, ingresso, questo te lo danno senza niente però, solo il trasmettitore, e sono carini comunque. Poi giù ce ne sono altri. L'uscita all'antenna è BNC. Dietro un ingresso audio supplementare, ulteriore. Un ingresso audio RCA, canale destro, canale sinistro. Cioè, rosso e nero. E bianco, scusa. Ma quello in pratica è direttamente dal coso. Già va bene. In pratica anche lo spinotto va oppure la dieta. Già va bene quello lì, ti prendo quello, poi per la Grand Prix non c'è nessun problema, costa una cazzata, costa 10-15 euro una Grand Prix per quella frequenza lì, capito? Ne smonto la discola e ci metto la mini Grand Prix, ci metto. E poi ci sono offerte anche con l'antenna, tipo, vediamo, addirittura l'alimentatore se lo vuoi, per esempio, adesso te lo dico. però questo costa già nudo e crudo 67 euro, dello stesso di prima. No, questo il prezzo è troppo alto. Con antenne tutto cavo alimentatore 127, no, prezzi fuori mercato qua, è roba cinese. Sì, si trova comunque, non è un problema. Poi se ne valga la pena è un altro discorso, Antonio. Sì, alimentatore già ce l'ho. Cazzo, c'è una 50 ampere qui, e una 20. Se l'ingresso non ci vuole, sono a posto, intanto il connettore vuoto già l'ho visto. Capito? È pronto da agganciare. Non è che sia già noi di quei capiti di Avuglia. Una casa di alimentatori. Poi scendendo vedo che lo stesso che uno ti fa pagare 52 te lo fa pagare 44. Vedi, sono tanti venditori, ognuno fa il suo prezzo. 44 euro ed è identico a quello che ti ho detto da 52. Ah, però 9 euro di spedizione. Vabbè, allora siamo lì. C'era il trucco. Infatti. Qui c'è anche una 6.000 euro di trasmettitore, se vi conviene, con la ventola, 2.000 watt, allora vai. Se passano 2.000 watt qui, guai, altro che 30 km faccio, arrivo a tempo, arrivo. Eia, ti volevo dire, quello che credevi fosse digitale, no? Questo Crylight, il nome, Crylight, modello E90, no? Sostanzialmente è come un Baofeng 888, però ha l'attacco batteria completamente diverso. E di quello già non ne trovi batterie di ricambio, E quindi meglio andare sul sicuro. 888 originale. A chi interessa, naturalmente. Uia! Si è pigliato una carrellata, cosa è fastidia. Gli ho preso. Che cosa si è attaccato? Usare il... Mi sono comprato il faretto da 10 watt di giga a LED. Allora si incamera, fa una bella luce. Sembra la mia al giorno, sembra. Altro che la pagina da 100 watt a LED. Sto guardando le Grand Plane, se ne hanno qua. Naturalmente Grand Plane, non veicolare. Addirittura te la danno portati l'antenna, hanno da attaccare dietro, però no. L'antenna vuole su. Ah, non ce n'è. Vabbè, comunque basta cercare su Google generico, perché su Google cerchi, ti può dare AliExpress, ti può dare eBay, ti può dare quell'altro, Banggood, ti può dare GRBest, no? Quindi è meglio cercare su Google e poi raffinare la ricerca all'interno del singolo negozio cinese. Ah beh, quello sì. Oh, ma vai, vabbè, le gatti ci sono, anche il capo. Se va bene il G58 ce l'ho. Ah, forse dovrebbe andare bene anche la discona, perché quella che è discona che ho io fa da... mi sembra che faceva da 3 a 1.200, se non mi ricordo male. Quindi già va bene anche quella, la discona. Trasmettere se la via in Napoli. Per ricevere, però se tu guardi il manualetto, poi i punti dove trasmette sono sempre i soliti, tipo banda VHF amatoriale, banda UHF amatoriale, poi al limite qualcosina più giù, tipo 49 MHz, ti ricordi quando c'erano i telefoni di cordless non omologati, o 70, ma non ti fa tutto in trasmissione, tutto ci vorrebbe un analizzatore d'antenna o quantomeno un rosmetro che copra addirittura quelle bande, cioè ci vuole quei rosmetri che fa da 1.8 a 5.25, no, sì, da 1.8 a 1.300, a questo punto uno se lo prende completo, gli serve un po' per tutto. Tipo il modello 1000 Proxel, come si chiama? Oxin, Proxel, Diamond, sono tutte le copie del Diamond, poi del Rosmetro, Battometro, Diamond. Allora io ho il mio settaggio modello 500, cioè già va bene lo stesso per il 8808, usavo quello una volta che funzionava bene come Rosmetro, il controllo stazionario, poi se non mi piglierà il mio gatto io vado a culo. Stacco una e ci metto un'altra. Sai che cercando su Google Grand Plain non emette, mi mette dipoli verticali, cioè con la staffettina al centro per attaccare al palo, dipolo verticale, e quindi c'ha lo stilo che radia su e sotto il radiale dritto, no? dipolo corti, sono quanto sono lunghe, vediamo, non mettono le misure, vabbè, occhiometro fai dividi per due la lunghezza d'onda, perché c'ha il braccio che emette, il braccio che già hai capito, dai. Sì, guarda che la navigatore c'ha lo stilo che è lungo 90 cm per esattezza, perché la usa, e mi ricordo che era 90 cm lo stilo. Vediamo, di solito io presumo che mettano il centro banda a 98 MHz comunque. Ah, descrizione. Sempre a Zichiri sul ponte Cisar. Uno schifo è diventato, Ruti, Pernacchia, quello incazzato, quello sardo giù da zona Oristano, sempre a Bozzi, tanto lo so che scemi, occhio, non c'è la misura, farabutti. Non c'è la misura, vabbè. Figlia, lo chiede a cosa, lo chiede a mazza se la fine è nato. Sembra la prenda. Oiuia. Tanto già sono andato lì, a Coforama, se c'era la cucina. No, non è la carne rubata. Ho detto, posso fare tu, che hai bisogno di qualcosa, gli ho detto, in offerta, gli ho detto, in pratica c'è i soldi tattavi. No, non arriviamo per il posto. Grazie, ho detto, staccate per il culo il televisore, così ho risposto, andiamo a guardare qualche altra parte. Chi è che te l'ha detto così? Che negozio? Stacco fuori la maglia alla casa, sono andato con Giovanna e volevo prendere il televisore col bonus, capito? Col bonus statale, infatti che abbassa il foglio ISE e paghi 50 euro di meno, quindi va a 199, lo smalto TV, meno 50, ti viene 150, no? Ha risposto a questa, no, non arriviamo. Allora ho detto, fate una cosa, il televisore ve lo lascio qui, ve lo attaccate in culo, gli ho risposto, così. Già quando ho qualche altro negozio, non si preoccupi, gli ho detto. Peggio prende che ha perso la vendita. A parte che i soldi ve lo dà lo Stato. Quindi siete voi, detto, che non volete fare questa storia qua, gli ho risposto. Comunque me ne sto andando, pigliatevela in culo, gli ho detto. Sempre molto delicatamente, e certe volte non ne hanno, sono incapolate. Io mi ricordo il popolo che ho lavorato, dicevano: non portate i vostri problemi personali al lavoro, se siete incavolati per conto vostro stringete i denti, ma non fate piazzate davanti ai clienti. Se siete nervosi stringete i denti, vi mordete la lingua. Vabbè, lì ci vuole un coordinatore che tiri le orecchie, capito? E tanti dipendenti sono così, se li lasci nello stato bravo fanno quello che vogliono, capito? Devono tremare i dipendenti. Sì, vabbè, anche gli infermieri sono, quando vai che di qualche cosa, tutti girati in balle, insomma. Sembra che gli stai chiedendo chissà che cosa. Stavo cercando di capire, ma la potenza di questi aggeggini è regolabile o no? Perché io vedo mic, microfono, ingresso audio, ma non vedo regolazione di potenza, può essere che sia fisso? No, dovrebbe essere fisso, capito? non te lo so dire. A meno che non... cioè, per farlo come dici tu, ci vorrebbe un eccitatore in pratica, messo, agganciato prima del trasmettitore, in modo che c'hai un watt d'ingresso e da watt d'ingresso c'è 15 di uscita, capito? Come si usava nel kit in una volta. A proposito, ti ricordi metà anni 80 quello della CTE da 2 watt che aveva quell'ingresso strano? E sio Maria, quanti anni sono passati? Ma tu quello avevi una volta? Il kit 428 c'avevo della CTE, che in pratica dovevi regolare 3 potenziometri, capito? E dovevi farlo prima senza ponte, hai capito? Una volta che c'avevi il ponte c'avevi 5 watt d'uscita. Io mi ricordo che arrivavi, avevamo fatto la prova. Io ero in basso, conta che io ero in basso, non ero molto, però da dove abitavi prima arrivavi, naturalmente in mezzo al casino delle stazioni potenti, però arrivavi. Non è lo dicevo, c'eravamo io e Roberto Luzzitto, capito? Eravamo in due, anzi in tre eravamo per esattezza, perché c'è un trasmettitore, avevamo piazzato lì a Usini, in discoteca. La discoteca trasmetteva in pratica sui 105, dai 105 poi io facevo il trasferimento, mi sembra intorno ai 96, mi sembra una cosa del genere, e poi Roberto pigliava e ritrasmetteva a me in un'altra frequenza, avevamo tre frequenze in pratica, poi Raviolo ha girato le balle a Roberto, perché era quasi attaccato a lui, come frequenza, lo disturbava, capito, ha preso, ma ha denunciato, e ha dovuto attaccare tutto Roberto. Cioè, lui il sabato trasmetteva direttamente dalla discoteca di Usini. Natalino, tu sei abusivi. E una volta magari, ma questo della discoteca era abilitato a trasmettere lì? Oh, eravamo tutti abusivi, eravamo. Quando trasmetteva la Usini, tutti abusivi, e anche Roberto. E allora cosa? Se era abusivo anche lui, cosa vi fate? Le denunce tra abusivi? La giù un pregio. Allora Radio Umili trasmetteva da molto di tempo, c'aveva la licenza, ma allora c'era, dopo che poi è nata la legge Mammi, è sparita anche Radio Umili, è sparita, capito? Perché ci voleva 100.000 euro, no, 100.000, ci volevano i soldi per poter trasmettere, dovevi in pratica la cauzione di pagare lo Stato, capito? Dopo che ha fallito la Liuria, lo sai che è la mia casa di renda. Natalino, hai mangiato? Yeah. Comunque se si potesse, sarebbe carina la radio di quartiere, capito? Potenze limitate magari. Mi pare che in altri paesi ci siano, adesso non te lo so dire, vabbè, e poi le cose peggiorano, vanno a esprire tutto, capito, rispetto a una volta. Guarda che c'è anche la TV che vendono, se guardi lì dove c'è di service, c'è anche trasmettitori TV. Quindi figurati tu, la prima ragazza che vedi in bagno, gli metti la telecamera e la trasmetti, così si vede in TV, si vede. Infatti telepomponio. Telepomponio. Io facciamo i canali a tema. Natalino si fa la TV, ovviamente gastronomia, roba di dolci. Pomponio, una passione tua, devi fare un canale tematico, capito? Oppure Natalino si fa il canale sulle armi. No, io sai cosa faccio? La prima ragazza che trovo se batte li metto nella telecamera TV, i trasmettitori TV, e così quando fa ciucu ciucu si vede tutto, si vede. No, ormai è superato, tramite TV è superato, ormai è tutto online, quelle chat, video chat, le tipe che si esibiscono, basta pagare e ti fanno vedere quello che vuoi tu, ma io mi chiedo chi sia che paga, no, non l'ho mica capito, no, è come gli 899. Cioè, spendevi un bel per sentire cosa, e alla fine bastava ascoltare un cellulare di qualcuno che chiamava gli 899 ed ecco che come che avessi pagato, e sentivi già bidure proprio squallide, no? Boh, poi, se c'è qualcuno si eccita con quelle fesserie, vabbè, capito Antonè, sentivi la tipo, oh, sono tutta tua, fesserie del genere, capito, cosa credi di sentire? E un amico di un amico, adesso non so, gente dei paesi, no, questo praticamente usava il telefono di casa per chiamare i numeri erotici, non so se fossero 899 o che numerazione c'era all'epoca, ci sto parlando di 15 anni fa, quando erano usciti, no? E il telefono era intestato alla madre, gli era arrivata questa bolletta di centinaia e centinaia di euro, non so se, no, non euro, lire, c'erano le lire all'epoca, Ezio Maria, e figurava 899, due ore di chiamata, tre ore, un'ora. Sì, ma non ha senso, proprio non ha senso, cioè tanto vale all'epoca, tanto vale andare in videoteca, affittarsi una cassetta di Cicciolina, buona Pozzi, buon'anima, solo che certi si vergognavano di andare a affittare, no, a me non me ne fottia nulla. Anche prima dell'automatico andavo lì, mi dà Cicciolina e Moana ai mondiali 90. E poi hanno fatto l'automatico che era più discreto, no, tipo, come si chiama? Bancomat, no, delle videocassette. E vedevi tipi coprendo col giubbotto, no, per non far vedere che stavano pigliando roba a porto. Ma addirittura. Vabbè. Antonello, c'è ancora? E gli aspetti, sto mangiando un piattino di pasta. Arrivo subito. Ecco. Dimmi, Natalì. Come quello che è andato in farmacia a comprarsi i preservativi, no? Era pieno di gente che ha 2 ore lì. Arriva giusto, no? Prende i preservativi, si gira e dice, e pagano l'usanza, gira in casa mia di cosa. Ehi, ma ecco, quello io non l'ho capito, perché vergognarsi di pigliare, c'erano amici che ti chiedevano di comprarglieli lì, dice io ho vergogna, anzi proprio perché lo usi dovresti andare fiero, invece di inguagnare qualche ragazza o pigliarti qualche malattia. Da voi pure chiedevo se avevano una marca particolare, vabbè, nell'età dell'oro, quando ero giovane, quando a me piacevano quelli doppio spessore, quelli blindati, non mi ricordo il modello, erano proprio blindati, no? Per evitare di fare danni, che già lo sai che io non figli a carico, figli sparsi per il mondo non ne voglio. Vabbè. Molta gente si vergognava proprio, detto, ma mica non stai rubandomi, anzi sei responsabile se lo usi e tieni anche la salute, se lo... poi vabbè, hanno fatto il bancomat anche di quelli, no? Metti i soldi e ti esce la confezione. Hanno fatto apposta, molta gente si vergognava, sì, e allora hanno fatto l'automatico per quello. No, io invece mi vergognerei di più di quelli che non lo usano e si pigliano malattie poi, oppure trasmettono malattie, oppure quelli che vanno a davvero inguaiare ragazze, però anche le ragazze, dico, parlo moderne, no? La pillola ormai gira gira te la regalano al consultorio e non prendi nessuna precauzione, è proprio da irresponsabile quello, vabbè, contenti loro, io sono ancora più contento. Io a Giumai per sicurezza non mi faccio la vasectomia, così sono sicuro. Quello è poco ma sicuro. Vabbè, comunque la gente se ne frega. Adesso per esempio stasera, no, sono andato a pagare l'assicurazione, no? Zona Canega. Sono andato da Muraia alle 5, no? Vabbè, era presto, quindi poca gente, c'era una, due persone, dubbio. Secondo me sono impauriti anche per... no, molti credono. Cinese uguale coronavirus. Io quando tossisco, soprattutto se sono in zone pubbliche, no? Negozi, uffici, cioè, o mi metto il fazzoletto, mi metto la mano, o come fanno molti adesso, il gomito, no? Faccio così, metto il gomito e tossisco. Cioè, ce n'è uno alla cassa, uno di Sassari, tossendo sguaiatamente, così proprio, senza coprirsi, così, capito? Ti mesce le luci, diciamo, per dire. Io lunedì devo andare a fare una commissione a Gianni, no? Al centro diabetico. Bisogna vedere se mi prendo in entrata. Se l'ho usata. Allora ti do il kit NBC. Ti metti la maschera integrale, il filtro anti P3, la tuta, i guanti in bottile, tutto ti do. Vedi se ti va di entrare. Io penso che lo chiudano. Ci sono tutte le scuole chiuse da domani. Lo so, fino a 10 giorni di chiusura, mi pare fino al 15. E a cosa serve? A nulla. Te l'ho detto, il giorno dopo che riaprono il virus è sempre lì. Non è che... Vabbè, non, l'hanno detto tutti, non serve a niente chiudere una settimana, 10 giorni. E d'altronde non puoi bloccare tutto il paese chiudendo uffici pubblici, scuole. Non è fattibile. Sta alle persone agire in modo corretto. Evitando anche di tossire in faccia alla gente come quel babbeo che c'era la Muraia. Boh, vabbè. Ragionamento sballato. Chi è? Gianfranco? Aspetta, voce, aspetta che alzo il volume. No, è colpa mia che il volume è al minimo. Dimmi Gianfranco. No, ho detto che il tuo è un ragionamento sballato. Perché bisogna bloccare i punti d'aggregazione. I punti d'aggregazione sono proprio quelli. Perché... loro dicono che uno corrisponde a due, un contagiato ne fa due, in realtà un contagiato ne può fare 10. Quindi è una precauzione che forse dovrà prendere anche la prima. Ma no, il ragionamento è giusto, cioè è inutile chiuderlo 10 giorni, o li chiudi per mesi finché la pandemia non si attenua, però. E come fai a tenere un ufficio pubblico chiuso mesi? Non è fattibile. E chiuderlo una settimana, 10 giorni come hanno fatto, non serve a nulla. Poi sta alle persone, ho detto, munirsi di qualcosa, mascherine, quello che vuoi, però che non stia poi a toccarsi gli occhi, a stropicciarsi gli occhi, a infilarci le dita nel naso, nelle orecchie e in altri posti. E rivedrai il casino, poi la gente si fa prendere dal panico, come hanno fatto a Milano, a svuotare i magazzini. Vabbè, speriamo che davvero per colpa di qualcuno non manchino le derrate alimentari. E se cominciano a chiudere aeroporti, coso, nafi, la merce non ne arriva più, ci mangiamo i gatti qua in casa, ce li facciamo arrosto me, Gianfranco. Sì, tu pensi c'è l'acqua da magna. Guarda comunque il padre dove ha tolto ai supermercati è stato creato negli Stati Uniti. Che hanno avuto i primi voti, lo sai, no, che dici c'è una bomba, subito lo valigiano i negozi. Vabbè, lì c'hanno questa cultura del prepper, no? Comunque in questi casi sarebbe utile avere una dispensa con un po' di provviste, ma non per te, per quelli che si fanno pigliare al panico e fanno razzia di tutto, acqua, tutto, svuotano i magazzini. tutto il comprabile lo comprano presi dal panico. Vabbè, lì sono convinti di sopravvivere anche a guerre nucleari, cioè anche la storia delle maschere, delle tute integrali, cioè, soprattutto in estate, è insopportabile tenerle addosso per più di qualche ora, cioè, ci muori dentro, mica, tu vuole morire senza... Caldo, lo fa crepare quel virus, non è un virus, adesso come fa, poco poco per tempo il virus sparisce. Perché non c'era caldo, Natalì? Fino a tre giorni fa avevamo, con quel giorno, cos'erano, 17 gradi almeno all'ombra. Cioè, io non ho mai visto un febbraio così caldo. Io a febbraio, quando uscivo fuori, battevo i denti certi anni. Quest'anno ho visto mosche, mosconi girare in casa, uccelli che ho letto anche che hanno defecato a sangue sulle lapidi. Hanno fatto uno schifo. La macchina non te ne dico, lo stesso è inutile anche lavarla perché te la ritrovi tutta mitragliata, e quindi vai Gianfranco. Comunque il concetto non è quello che dici tu, è totalmente diverso il concetto da bloccare scuole, i punti di aggregazione eccetera. Serve solo come divertivo, cioè per avere tempo. Il tempo in questo caso è prezioso, perché se fai come dici tu, andiamoci nella partita e spieghiamocene eccetera, tempo due giorni avresti una situazione ingestibile, cioè tutti i giocatori bloccati, tutto insomma uno stato di guerra anche peggio. Quindi queste precauzioni che tra l'altro in Cina hanno funzionato, nel presente hanno usato anche l'intelligenza artificiale per individuare a uno tutti i virus, sono controllati da telecamere ne ha prima messa, quindi con tanta pazienza, certo sì, li hanno trovati a uno e insomma hanno cercato di imbrigliare la cosa, capito, prima che esplodesse in maniera incontrollata. Il problema è solo quello, avere il controllo della situazione con qualunque mezzo, qualunque sistema, metterlo per mesi, quindi sarebbe un ragionamento assurdo, quello che ci abbiamo noi è improponibile, però già 15 giorni, 10 giorni, quello che sono, permette di fare un range di persone che magari sono contagiate molto più preciso, molto più, insomma sono questioni tecniche, e tu c'è anche la maschera antigas, non sei informato su tutte le tattiche e i protocolli che ci sono, mi meravigli Marco. Ma sai cos'è? Vabbè, mia zia che ci ha lavorato in mezzo agli ospedali dice che se diventa pandemia grossa ben poco possono fare, cioè in Italia, carenza di medici, carenza di infermieri, carenza di posti, metti che tu debba mettere in rianimazione centinaia di persone, quelli più gravi. Non c'è macchinari, non c'è di risorse. Beh, forse perché lì la vede dall'ottica di chi ci ha lavorato in quel settore, la vede male la situazione, se dovesse aggravarsi, se non dovesse aggravarsi, e vabbè, comunque per quanto facciano o non facciano, un po' si allargherà questa cosa. Te l'ho detto, quando trovi gente che ti tossisce in faccia, come quel Billoi di prima, no? Un po' anche di credere in modo di fare, no? Io se ho il fazzoletto, tendo a essere più discreto nel tossire, nello starnutire, questo sia due metri, così. Ci sono le persone. Beh, non sta lì. Purtroppo il mondo è pieno di imbecilli. Sì, infatti. Adesso vedrebbe se c'è qualche caso, perché dice che stanno facendo entrare a tre dal medico, poi dice che da domani sono chiuse le scuole, è un mazzetto. Sì, dove sono andato io era già così, quindi con le mascherine, con tutto, perché anche stasera abbiamo avuto i tre casi, c'è gente già deve stare dentro di casa, quindi per precauzioni devono essere molto severe e applicate, perché sennò d'altronde è classificata pandemia, quindi è così. L'unica soluzione, finché non si trova un vaccino, è quella dell'isolamento, quindi dell'evitare, per fare almeno ce n'è, è più facile gestirla. Poi se succede, se è presente che in ogni caso ce la prendiamo, cioè queste misure non sono per sconfiggere il virus o se ne va da solo oppure trovi un vaccino, sono per cercare di ridurre al minimo gli interventi che devi fare, così è un po' come fare prevenzione su incendi. Poi se ci sono quelle persone lì, dice Marco, quelli sono soli, quanti ne abbiamo avuto? Non avete ricordi quello dell'AIDS, che ci faceva tutto, cani, gatti, donne, uomini, per non essere solo ad avere l'AIDS. Così sono certe persone. Infatti è proprio così. Però per il vaccino dice che ci vuole un anno per fare un vaccino, non è così, con tutto che l'hanno isolato il ceppo italiano, però per fare proprio il vaccino ci vogliono sperimentazioni, non è così, un anno ci vuole. Faccio notare per rispondere a Marco poi che gli italiani nel campo della virologia siamo tra i primissimi posti, ci abbiamo pochi che possono vantare una tradizione di eccellenza come quella, tant'è vero che lo Spallanzani è stato tra i primi a avere risultati anche con quella aviaria eccetera, quindi su quello niente da dire. Certo se mi porti tutta la città dentro l'ospedale la vedo triste, anzi la vedo impossibile, comunque hanno già calcolato che è impossibile per qualunque nazione, anche la più organizzata, la più attrezzata, far fronte a una pandemia, ma questo è già tutto, purtroppo com'era quel film, il mezzo chilo di carne se la prende. Ti volevo dire, non so chi giorni fa, non so se fosse un politico o chi era, aveva detto di non mettere mascherine perché così spaventi le persone, no? Mascherine anche di quelle chirurgiche, no? Quelle tre strati che comunque non è che filtrino, il virus dovrebbe passare. Cioè, hanno fatto un discorso del genere, non mettere mascherine e spaventavi le persone, seminavi il panico. Cioè, io preferirei vedere tutti in mascherina, cioè, mi spaventa più il virus che non vedere uno in mascherina, anzi, forse vederlo in mascherina mi rassicura un tantino di più, perché siano mascherine adatte, cioè P3 no, quello proprio fitto, che non mi ricordo, 8 nanometri è fitto, il virus praticamente non dovrebbe passare. Poi c'è sempre una piccola percentuale, capito? Per non seminare il panico dice non mettetevi le mascherine. Vabbè, non mi ricordo chi l'ha detto comunque, io lo riferisco così come mi è arrivato all'orecchio. Ma i sani non se la devono mettere la mascherina. La mascherina serve per proteggere gli altri, a te la mascherina non ti protegge, hai capito? Se uno è sano non si ne deve punire di mascherina. Se uno non sta bene, che c'è raffreddore, cosa allora se la deve mettere? Ma se uno è sano, non se ne deve mettere, perché intanto è per proteggere gli altri. La mascherina a te non ti protegge. No, no, no, se la mascherina è adatta, tipo la 3M3332, quella P3 mi protegge come? Però siamo sempre lì, se io poi, come ho il vizio di fare, mi tocco gli occhi in continuazione, mi stropiccio e magari ho toccato maniglie di edifici pubblici, c'è capito Natali? Vabbè, comunque, allora non facciamo nulla, non mettiamoci niente, freghiamocene, non lo so, tutto è il contrario di tutto qua alla fine. Quella della mascherina serve anche a non ammalarsi, però è inutile mettersi quelle chirurgiche, che sono dei pezzi di carta, ci vuole la mascherina adatta e che sia tenuta, cioè non deve esserci spiffero né da zona naso né dal mento né nulla, sei capito? Io ho capito, comincia a farti la mucchina invece e ti lavi le mani spesso, quello sì che è una cosa di profilassi. Perché tra poco manco a mucchina troverai, già lo sai come si fa. Metti l'acqua e poi la cosa, la candeggina, la sigla. Ti vai lì se ti lavi, le mani con vista, per disinfettare. Io c'ho già tutto, ma non da adesso, da 2-3 anni, di tutto e di più. Sai cosa aveva detto un posso? Allora, uno che vende alimentari, diciamo qua in zona, no? Aveva detto che è un negozietto, aveva detto, dice io non capisco questa gente, ma lo diceva mesi fa, quando non esisteva il coronavirus, proprio non se ne parlava nemmeno. Io non capisco questa gente che va nei supermarket, si riempie 2-3 carrelli di roba, dice, manco ci fosse un'epidemia. Deve essere che ha pindacciato lui. Ho visto che deve essere pindacciato. Comunque, la mascherina è utile per tutti, solo che siccome c'è la psicosi, come in tante cose, adesso la vogliono tutti, però facendo così queste mascherine, infatti l'Italia è stata tra le prime, anche la Francia, a bloccare le esportazioni e diciamo così, in termini un po' brutti, a militarizzare quasi l'uso delle mascherine, quindi anche gli acquisti delle mascherine. Quindi tutta la protezione civile le ha acquistate, tutte sono preservate in modo da poter distribuire agli operatori che operano, e quelli veramente sono a rischio. Poi se non riesce a averle, tanto meglio. Certo devono essere delle mascherine che proteggano, che siano efficaci contro questi virus. Poi magari te lo prendi lo stesso, perché come ha detto Marco, vai a casa, non ti lavi le mani, ti tocchi qua, ti tocchi là, pensando che il virus non ci abbia quel lasso di tempo comunque di vita all'esterno, anche sugli abiti, su qualche oggetto che ti porti appresso, su una borsa, capito? Quindi insomma, funziona o non funziona, diciamo. Avanti. Buonasera. Chi è? Tonino? No, Cavazzata. La voce è molto lontana, c'è un eco, ma è molto lontana la voce. Cappa. Cappa, adesso com'è la voce? Più forte. C'è come un soffio di fondo, sto sbagliando io. Vai, metti la timuzza. Ehi, c'è un soffio. Senti. C'è Natalino e Gianfranco, c'è oltre a me. Vai. Avvicinati al microfono, sto lì, però se no si basso il radio, E così non va bene? Adesso sì. E siccome io sto lavorando con le dita e con le labbra. Ah, ecco. Comunque Gianfra, per fine discorso, io per quante misure posso usare, non te lo me lo beccherei lo stesso anch'io, non, a meno che non usi quei protocolli NBC che proprio ti devi fare decontaminare, ma lì è roba da fantascienza, un privato non può disporre di quei mezzi, in piccolo puoi fare qualcosa ma non ne vale nemmeno la pena, ti dirò. Vai Natalino per Tonino. Ciao, tu mi ben sentito. Dai, prendo la palla al balzo per fare quelle vestiche. Me ne vado a letto così mi vedo un po' di televisione. Ci sentiamo alle prossime, dai. Salutini a tutti, anche a quelli che ascoltano. Ciao Natalino, purtroppo io qui faccio un altro ricorso, non fare cosa, semmai è un po'. Prosegue, ciao. Comunque Tonino, rispetto al giorno che ti ho sentito, la radio è molto più lontana e c'è questo soffio abbastanza insistente che sia legato alla camera eco. ma questo eco esce? C'è il tastino, c'era l'eco. Vicino al display dovrebbe essere il secondo tastino. Quando porto, adesso c'è l'eco. Sì. E allora non è il secondo tastino. Vicino al display del LED, vedete, dovrebbe essere. Sotto la manopola delle, come si chiama? Delle bande. Cioè, delle bande, sì. Guarda, uno, due, tre. Esatto, adesso non ce l'hai più, già è giusto. Siccome ce lo conosco almeno anch'io, secondo succedo. Guarda se adesso c'è quel fruscio sottofondo. No, adesso il fruscio non c'è. Lo fa l'eco, vabbè, come hanno regolato l'eco più che altro, hai capito? Siccome sono in galleria passano troppi trini qua, capito, per questo. Ma dai, questi X ci sentiamo dopo, ciao. D'accordo, dopo allora. Avanti Gianfra. Sì, ciao Tonino, buona serata. Anche io ne approfitto, non mi accorgo che sono già le 9. Buona serata a tutti, buon proseguimento. Ciao Antonella, ciao Marco, ciao a tutti, alle prossime. Riprendi Marco. E io Gianfra, non mi ero reso conto che erano le nove passate, io fra poco devo di nuovo uscire. Dai, buona serata, buon tutto, ci sentiamo nei prossimi. Vai Antonello per i saluti. E io Gianfra, ci sentiamo nei prossimi, stavi bene, buon tutto. Kappa. Quando mi sono io ho preso una specie di bronchite che mi si è abbassata la voce a me. Poi cazzo, il colpo in testa. E quell'altra cosa tutto assieme, cazzo. Bronchite? Allora il coronavirus attacca i polmoni? Sì, i polmoni ho fumato gratis io. Da quando esiste Giampiero, figurati. Prima Giampiero, poi Giovanna. Dopo Giovanna Simona, quindi 3 in 1. In pratica, io ero l'unico imbecille che non fumavo non abitavamo nell'appartamento di Giudo, la cucina. Diventava, cioè, presente come quei circoli quando entravi, sembrava quei circoli degli anni 70-80, che era un fumo lento. La nebbia, già mi ricordo. Sì, in certi era eccessivo, proprio c'era la nebbia, la nebbiolina. Vabbè. Capito Antonello, il coronavirus praticamente diventi come Fabrizio Corona, no? Ti compaiono i tatuaggi in tutto il corpo, ti arrestano, capito? Fai dentro e fuori, ti fanno una crocerata con le lemora. E allora, fuglia, tutto è partito da... come si chiama con l'animale che esce di notte, ma secondo me hanno fatto come si dice l'amministrazione di massa e hai capito, sono persa per strada, poi hanno incolpato quella specie di uccelli che non c'entrano un cazzo alla verità, perché è partito tutto da lì, hai capito? Cioè tu dici che può essere un virus, il solito virus è scappato dal laboratorio, attaccato alle scarpe di qualcuno, ma lo dicono di ogni pandemia, Antonè, che è il solito virus da laboratorio che riesce a trovare una via di fuga, lo dicono sempre. Sì, vabbè, in Cina si è poca immondezza, tutto animali per strada, poi te li ammazzano davanti, uno schifo del genere, sai come ammazzano i cani? L'ho visto l'altro giorno, ho visto un filmato, prendo un cane, ce lo metto dentro la palla di acqua calda e poi lo scuoiano vivo, cazzo. Ma chi l'aveva ammazzato? Non ci sarebbe manco più andato di quei tornati cinesi. A me l'avrebbero chiuso se l'avevo preso in culo. Ce la fai a farti passare carne di coniglio per carne di cane? Non saranno, o gatti mi. e avevo visto qualcosa anch'io, tipo animali da pelliccia scoiati vivi, una cosa schifosa, e lasciati lì ammassati uno sull'altro che ancora si contorcevano dal dolore, una cosa immonda proprio. Questione di cultura, vabbè che nei mattatoi da noi magari non li scuoiano vivi, li abbattono con la pistola da mattazione o li stordiscono con la corrente, però anche lì è un lager. A questo proposito, stasera ho mangiato carne di maiale, buona, mi dispiace per il maiale, ma il maiale è buono. Ma io ho fatto questo partito ieri, la verità. Ho fatto due tipi di cose, di carne di maiale. Uno l'ho comprato a scopo perché l'altro l'ho preso dallo spino, lo spino c'erano i bocconcini. In pratica la carne rimaneva morbida, cucinava prima. Poi c'era l'altra, la leggermente più dura, però era buono lo stesso, ci ho messo le patate e mi è uscito di lusso. Ce l'ha mangiato un bel piatto Alessia, gli piace parecchio quella carne lì. E stasera ho avuto i miei occhietti, ci hanno mangiato due piatti stasera, e poi il piatto l'ho mangiato io poco fa, ho fatto la metà di mezzo chilo che ho fatto. Ma lei si sa cucinare anche? Cioè glielo state insegnando un po', così almeno quando sei vecchio e cucina lei, anziché cucinare tu per lei da giovane, cucina lei. Già glielo insegnerò, se ne ha voglia di farlo, quello non c'è problema. Il sugo da tonno lo faccio io, prendo quella faccetta a cubetti, capito? E faccio su con la pancetta a cubetti, esce veramente buono. Poi ci metto il rosmarino, l'origano e il basilico, esce un buon boi su, c'è un bel sapore. E poi questione dei gusti, per esempio qualcuno il sugo lo fa più con la cipolla, io c'era un periodo che lo facevo più con l'aglio, cioè non ne mettevo cipolla, mettevo aglio, un bel po' di aglio, ed era leggermente più acre, no? Come sugo. Vabbè, adesso mi piace in tutte le maniere, comunque sia. Poi vediamo che ora è 9:10. Vabbè, fra poco devo uscire. Al limite chiudo adesso, così mi preparo la roba, vado a cambiare camicia, eccetera, forse anche giubbotto. Natalino, beh, ma è Natalino, Antonio, dai, sentiamo quando capita, ok? E io, non c'è problema, buona passeggiata allora, che almeno ti fai un giro e ti svaghi. Capito, ci sono, ho visto un sacco di locali, ci sono stasera adesso. Ce n'è uno andando verso Carica, l'ho aperto da poco un circolo lì, ma c'era una tipa, c'era, so che è bello, quindi figurati, almeno ti ascolti un po' di musica, ti bevi qualche cosa e passi l'ora. Sotto la gente che mandava 188, invece gli anziani come coso, quando sempre in quello sale la ballo notturna, a ballare, cazzo. Ma i night stai dicendo, quelli tutto maniaciume e miniattume? La verità non so se è night, lo vedo spesso su Facebook, cosa ci va a me, Tore Sagittario, si è separato dalla moglie e quindi va lì, c'è gente grande, vanno lì, ballano, hai capito? Tutto è nato alla carestia, prima non ho visto bere birra, adesso beve la birra, ragazzi. Sai, ce n'è un sacco a Sassari, questi locali un po' ambigui, sì, locali dove balli, dove bevi, però avevano fatto mesi fa un'ecatombe, tutti chiusi per, non dico sfruttamento, ma favoreggiamento della prostituzione, perché alla fine i clienti si mettevano d'accordo lì, conoscevano le tipe lì, poi andavano a trombare fuori, però... delicato il discorso, già lo sai come no. Addirittura il Prince, io avevo lavorato negli anni 90 al Prince, che è alla Landriglia, un bel localino su due piani, all'epoca era discoteca, più cabaret, e adesso ho saputo che è diventato lo stesso un locale lì, potremmo definirlo equivoco, dove ci sono le ragazze apposite, e lì ti invitano, cioè ti invogliano a offrire da bere, una parola ti dà l'altra, e poi però sempre a pagare, capito? Ehi, vabbè, quello già anche a Marini c'è per questo. Quando Simona lavorava lì a Pizzicotto, ti parlo di tanti anni fa, perché in pratica sostituiva a Giovanna ogni tanto, scendevo in moto con Bazooka, e dopo la mezza volta andavo lì a Marini, siccome conoscevo Claudio, il gambusiere, e anche Parole, capito? E andavo lì, bevo la birra, me ne offriva 5-6 di birre, ma c'erano tante ragazze, tutte sedute sul divano, mi dico una cotta corta, e avevo questa qui di tanto partire, ho detto, ma Claudio, e per tutta una curiosità, ma quella lì, e gli ho detto, quanto prende? E fa 100 lire, dice prende 200 euro. Ed è russa, mi ha detto. Il cazzo, ma cosa l'abbiamo, ho detto. E come si chiama? E dice, gli va bene, mi ha detto. 5 per volta, ogni notte, insomma. Sempre gli stessi vanno e fanno quello che devono fare. E gli ho detto, cazzo, ora già in casa bene, addirittura. Insomma, 200 euro. Quindi l'equivalente di 400.000 lire. Io ho già te l'ho detto in verticale cosa preferirei fare. I soldi me li tengo in tasca e poi già c'è Maria Mano. Oh, anche a Olbia, quando mamma ha lavorato a Olbia, ha insegnato a scuola, io ero andato per un periodo lì e li ho visti quei locali. Ce n'era qualcuno a Olbia, poi puntualmente chiuso per il solito motivo. Ma certe canne, Antonello, tutte tipe dell'est, nord-est Europa, le ragazze più belle del mondo, però sempre quello è il lavoro, capito? A parte che io non spendo soldi per assolutamente, non esiste proprio, piuttosto mi compro radio. E comunque ci sono parecchi che si sono sposate di quelle di Real Saggia. In pratica la moglie di signor Franco, quella che c'è adesso, lavorava lì al night, lavorava a me. Io conosciuta lì, capito? Lui cantava più che altro, poi a suonare c'era, non ti dico chi c'era che sotto ti metteva a ridere, c'era un CB, c'era che si metteva a suonare il pianoforte, e lo suonava anche bene. Poi ho trovato altri 3-4 CB, mi faceva nessuno, noi che siamo qua, e io ho detto non ti preoccupare che non me ne frega niente, a me ho fate quello che dovete fare, sputatevi solo, ho detto a me, io qua sono gratis, io vengo qua, bevo e poi me ne vado. E infatti scendevo intorno alla mezzanotte, mezzanotte e un quarto, Simona usciva e scendevo direttamente lì, mi bevo due o tre spine, perché mi davano le spine, Claudio, e poi me ne andavo tranquillamente a casa, diceva Simona. Oh, sono arrivati, dai, sto andando, dai, sentiamo, dai, adesso devo scappare. Ciao Antonio, ciao, buona serata, buon tutto. Ehi, ok, ciao, ci sentiamo, buon tutto. Andiamo a Mignotte adesso, mi hai visto che... No, cioè, lo sai che non sono il tipo. E uno ci è andato l'altro giorno, lì a cosa? All'uscita di Santa Maria, vicino a... Mi sembra che era alla piazzetta, una cosa del genere, dice che ha visto queste due, dice due canne, cazzo, e poi invece si è trovata la duetta Lars, ha preso i piedi e se ne è fuggito. Dai, scappo all'istante, ciao ciao. Ehi, ciao ciao.